Sento anche stavolta, sporcherò ed io so perché. Mentre sto piangendo così bene accanto a te, mi sveglio ancora presto, so che non mi muoverò. Libero la mente, poter essere come te.